La versione di Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.31 prima in questo minuto preciso, in diretta qui da Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. E questo giovedì 3 marzo 2016 io do per scontato che voi sappiate che cosa è già successo in Libia, perché ne hanno parlato abbondantemente a trasmissione di Radio 24, dai giornali radio, Simone Spezia e così via. Non ci sono grandi sviluppi purtroppo da segnalare per la morte di questi due ostaggi italiani in un'azione delle milizie libiche contro ISIS. Dico solo che abbiamo fatto trasmissioni apposta segnalando che ci sarà un avvitamento in via, man mano che ci avviciniamo a questa missione in Libia, di cui ancora non conosciamo bene i particolari, e quindi purtroppo tremo per gli altri due ostaggi italiani. Speriamo tutto bene e un abbraccio ai familiari. Oggi parliamo di questo sviluppo molto importante, uno sviluppo storico che è avvenuto ieri nell'ambito dell'editoria italiana, dei padroni dei giornali del nostro paese, di grandi testate. Che è una conferma del fatto che, insomma, i vecchi equilibri non reggono più nel mondo dell'editoria, ma insomma della grande impresa italiana, tutto cambia. E quindi abbiamo due ospiti con i quali interrogarci su che cosa significhi la fusione tra Repubblica e La Stampa, che è stata formalmente decisa e avviata ieri, dopo mesi di cui se ne parlava in realtà, anche se se ne parlava in punta di piedi, con un occhio attento al fatto che contemporaneamente, poiché Fiat ha deciso, accogliendo dopo tanti anni la richiesta di Marchionne, che l'ha sempre pensata così e non l'ha mai nascosta, ma Yakel Khan ha deciso di dare retta a Marchionne, e quindi, oltre a, tra virgolette, disfarsi del giornale storico dai tempi del fascismo, a dire la verità, che fu il regime a dare La Stampa agli Agnelli, però di disfarsi del quotidiano imperiale torinese, per così dire, dell'azienda automobilistica, altrettanto fa però smontando anche la sua posizione, l'annuncio contestuale da primo azionista di RCS, direttore Corriere della Sera, come era. E quindi, come si può facilmente immaginare, oltre alla notizia formale di ieri del acquisizione, perché di questo si tratta, da parte del gruppo CIR, dell'ingegnere De Benedetti e di suo figlio Rodolfo, della Stampa di Torino, il problema diventa automaticamente anche quello di un assetto azionario a fronte dei debiti e incapace di sanare da anni e anni, visti i disastri gestionali accumulati, cioè in RCS, che svolta prenderà il fatto che viene meno l'azionista principale, e quindi a questo punto diventa all'ordine del giorno il problema, troppo a lungo rinviato. Ma chi davvero ci mette i soldi in RCS per uscire da una situazione in cui, venduto tutto quello che si è dovuto vendere perché acquisito a prezzi pazzi in giro per l'Europa, comunque si resta con un debito ricontrattato 5 volte forse negli ultimi anni con le banche, ma che è ancora abbondantemente superiore al 500 milioni? Ci saranno nuove fusioni, oppure che cosa diavolo avverrà? Ecco, questi gli interrogativi, e da capire bene che cosa voglia dire per i giornali, che hanno margini bassissimi e perdono soldi, a dire la verità, e perdono copie, per come sono fatti, o perché non hanno ancora capito come cambiare il modello di gestione, o perché hanno ancora troppo in pancia vecchi giornalisti pagati spropositatamente rispetto alle loro reali responsabilità. Non me ne vogliano i colleghi, però questo è il fatto, perché gli anni ci hanno proposto battaglie sindacali per impedire di usare lo stesso contratto per scrivere sulla carta stampata e per fare il digitale, perché si credeva che fosse un'attività impropria e così via, oppure feroci resistenze perché non fossero i giornalisti a mettere in pagina le notizie perché c'erano i vecchi tipografi. Insomma, il mondo cambia, i giornali dovrebbero servire per cavalcare il cambiamento. All'interno dell'organizzazione aziendale non è stato così. Ma ci dice solo di questo, ci dice anche dei poteri e della politica, visto che, per esempio, l'acquisizione da parte dell'ingegnere De Benedetti della Stampa è di sicuro una cosa, tutti lo scrivono, ed è sicuramente così che piace a Palazzo Chigi e al governo. Verrà la stessa cosa per il Corriere della Sera? Domanda. Allora, io mi limito a richiamare due commenti da punti di vista diversi che hanno usato la stessa espressione oggi, e che in questo mi hanno fatto sorridere, ma rivelano che poi ci sono interrogativi che accomunano anche le opinioni più diverse, cioè chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, chi è più progressista, chi meno. Perché se andiamo a vedere, per esempio, il Fatto Quotidiano di oggi ha un bel commento, annuncio e commento, ma insomma anche commento, di Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano, in cui la chiave, una delle chiavi usate per commentare l'acquisizione da parte dell'ingegnere De Benedetti della Stampa di Torino, è dire: bene ragazzi, diciamocelo chiaro, già prima i vecchi, i famosi ex poteri forti, quelli che io chiamo da anni i poteri corti oramai, corti di cassa, di prospettiva. Ma già storicamente la regola che c'era tra i loro organi di informazione è che raramente cane mangia cane, cioè ci si facevano tanti favori reciprocamente, perché era un capitalismo di relazione collusivo, e quindi i direttori facevano carriera più per le notizie che non davano che per quelle che davano. Posso garantire che anch'io ne so qualcosa in piccolo. E la conclusione di Giorgio Meletti è: vediamo se adesso che Giorgio Meletti si prende anche la stampa, il pluralismo dell'informazione non diventerà un giardinetto in cui ancora di più vale la vecchia regola che cane non mangia cane. Sul Foglio invece Giuliano Ferrara, che fa una ricostruzione in cui tira in ballo la storia passata, Craxi, De Mita, Berlinguer, eccetera eccetera eccetera, però anche lui usa l'espressione a un certo punto del cane mangia cane, e chiude dicendo: ci saranno meno chiacchiere sui poteri forti, si spera, dopo questa acquisizione, e speriamo che a questo punto la logica delle affinità elettive, sempre parole di Giuliano Ferrara, nella nuova situazione di stampa e capitale di riferimento, non si attenui fino allo scandaloso e benedetto scenario di un sistema dei media in cui cane finalmente impara a mordere cane. E vedete che le frasi sono esattamente le stesse, e questo mi è piaciuto, a dire la verità. I grandi giornali italiani si sono comunque, questo è il mio giudizio, faccio un'eccezione apposta per il Foglio e il Fatto Quotidiano, si sono molto trattenuti oggi nel dare non solo l'annuncio della notizia, questo c'è dovunque, ma nel commentarla, perché come è evidente tutti si sentono in grande difficoltà, qualunque sia la loro proprietà, nel dover ammettere che dietro c'è fallimento di un modello di gestione, ritardo nel capire che cosa significa il digitale rispetto alla carta stampata, anni e anni di perdita di fusione, tardivamente accompagnati da una riflessione sulla trasformazione generale dell'informazione, e poi soprattutto cosa diavolo vuol dire nell'equilibrio tra questa debolina impresa italiana e soprattutto il bilancio finale, del fatto che gli editori impropri, che avevano e hanno la loro attività predominante in altre attività che non è l'editoria e che si sono messi a gestire i giornali, hanno in realtà un bilancio che è praticamente quasi per tutti abbastanza disastroso, perché il caso RCS è un caso che grida vendetta nell'alto dei cieli, a dirvi la verità, dopo tanti e tanti anni di errori accumulati. Queste le domande. Allora, gli ospiti con i quali interrogarci sono appunto, non a caso, giornalisti delle due testate che ho citato, nella mia sindacabilissima opinione che questi siano quelli che hanno avuto oggi un commento da parti diverse, ma comunque più libero, più sciolto nel mettere insieme tutti i problemi, sia quelli dei limiti degli imprenditori, sia quello del significato politico, di che cosa voglia dire, e del pluralismo, che non è proprio una merce molto diffusa nella nostra informazione. Allora è con noi Giorgio Meletti, appunto, l'autore del commento oggi sul Fatto Quotidiano. Grazie Giorgio di essere con noi. Grazie a voi, buonasera. E Salvatore Merlo, che oltre a Ferrara scrive oggi un pezzo di ricostruzione, di commento anche lui dell'acquisizione da parte di De Benedetti della stampa. Grazie Salvatore Merlo di essere con noi. Eccomi, salve. Posso cominciare da Meletti? Tu mi pare che non ti aspetti cose molto positive, o sbaglio? Dalla fusione? No, diciamo dal punto di vista... Ci sono due piani, c'è quello diciamo del mercato dell'informazione con i suoi significati anche in termini di trasparenza, democrazia, pluralismo eccetera, e poi ci sono anche quelli più industriali che sono collegati ai primi e che sono quelli secondo me poi più preoccupanti, nel senso che la presa del potere economico sull'informazione italiana è un dato acquisito da decenni. Eh già. E non mi pare che con questa operazione la situazione possa peggiorare più di tanto, diciamo, tutto sommato. Mentre invece trovo che sia piuttosto preoccupante l'aspetto industriale. Io su questo, se mi dai un attimo... Non ti spaventare, vorrei fare un salto indietro di 30 anni, sì, per ricordare a chi ci ascolta che Carlo De Benedetti, oggi 81enne, è l'uomo che 30 anni fa ha distrutto l'Olivetti, e l'ha distrutta con un ragionamento che è lo stesso che oggi vediamo di spiegarsi, cioè io ho il controllo del mercato dei computer in Italia e in Europa. È inutile che mi dissangui a finanziare la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, perché tanto io, avendo il grip sul mercato, è questa la mia posizione di forza. La tecnologia, si diceva allora, si compra, usavano questa espressione americana, off the shelves, cioè si trova sugli scaffali del supermercato. La tecnologia, c'è qualche scemo in California che la fa, che la produce, ma tanto, siccome il mercato ce l'ho in mano io, sarò io a catturare i margini. Ed era è l'epoca in cui, appunto, De Benedetti, lui stesso lo ha raccontato, che guardò con sufficienza a quel giovane Steve Jobs nel garage. E si sa com'è finita. Negli stessi anni Cesare Romiti faceva lo stesso ragionamento alla Fiat, cioè è inutile che io investa sul prodotto auto, perché tanto io ho in mano il mercato italiano. E quindi bye bye Ghidella. E gli vendo la Duna e caccia Ghidella, che era l'uomo che invece faceva le macchine, le automobili belle. Questa storia dopo 30 anni è ancora la stessa, ed è la storia con cui questi sciagurati capitani di sventura continuano anche da vecchi a distruggere l'economia italiana. Coi giornali funziona lo stesso lavoro. Io tanto c'ho il mercato e quindi nei giornali ci scrivo, non importa quello che ci scrivo, non importa le notizie che non do, anzi, siccome in realtà gli editori italiani sono tutti impuri e sono appunto interessati solo a controllare che non escano le notizie sgradite, è evidente che, infatti, quale poi dice che grande bella operazione, si fa una maxi fusione perché questi pensano di aumentare la presa sul mercato e di fare chissà quali sinergie, cioè tagliare i costi. Tagliando i costi si fanno le sinergie, ma non ne tagliano, in realtà non taglieranno niente, nel senso che sì, alla fine, certo, se tu sostituisci, cioè elimini la redazione della Stampa, adesso lo dico esagerando, no, certo, per capirci, elimini la redazione della Stampa e sulla Stampa stampi le notizie scritte dai giornalisti di Repubblica. Il paradosso, faccio osservare a chi ascolta, non a te che non hai bisogno della mia osservazione, ma il paradosso è che sono gli stessi giornali che però, per esempio, per quanto riguarda le politiche economiche nazionali, cari ascoltatori, dicono incessantemente che la via vera, e c'è del vero in questo che dicono, con un paese ad alto debito, è quella di accrescere il denominatore su cui si calcola il debito, cioè della crescita, non dei tagli. Quando però vanno a casa loro, invece di praticare la crescita nelle aziende, anche loro dicono tagliamo i costi, perché c'è una contraddizione evidente tra il loro modello organizzativo e gestionale e quello che invece poi fanno scrivere sui loro giornali, allora, perché questo significa avere più soldi dalla politica. Ricordiamolo, cari ascoltatori, che noi stiamo in questo, sta passando, è passato altri 100 milioni di sostegno al fondo dell'editoria, 100 milioni alimentati con l'eccesso di incasso Rai che pagheremo tutti a luglio con il canone in bolletta. E perché dobbiamo dare i soldi, visto che serviva alla RAI, questo in maniera discutibile, io non sono molto d'accordo di pagare il canone, però va bene, va alla RAI così c'è meno evasione, e invece perché dobbiamo con questo pagare anche 100 milioni agli altri editori? Chiusa parentesi, scusami, è perché ci entrava con quello che stavi dicendo, allora riprendi Giorgio. No, io poi adesso potrei seguitare a lungo, anche perché poi gli ascoltatori dovranno comprendere che noi giornalisti, quando si parla di giornali, siamo coinvolti anche emotivamente. Io ho speso 10 anni della mia vita al Corriere della Sera, quindi diciamo ho vissuto tutto il tema dell'editore in puro, per cui noi giornalisti siamo coinvolti perché siamo come osservatori. Sì, dobbiamo non fare gli autoreferenziali, però no, ma infatti provo a guardare dal punto di vista dei lettori dei giornali, cioè del mercato, e vedo questo. E vedi questo, non perfetto. Non c'è un solo editore in Italia che punta a vendere più copie dei giornali, facendo i giornali fatti meglio, più ricchi, con più notizie, in modo da conquistare mercato. Ok, ci fermiamo per un minuto di informazioni stradali e sentiamo invece da un altro punto di vista cosa pensa del modello editoriale e organizzativo dei giornali. A, B, del pluralismo. C, c'è anche il tema Corriere della Sera, che chiedo già da subito anche a Salvatore Merlo poi di trattare, perché poi lo chiedo anche a Giorgio Meletti. Tra un minuto riprendiamo con Salvatore Merlo. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16.47 primi qui dagli studi di Milano di Radio 24, puntata dedicata alla fusione Repubblica Stampa, anzi all'acquisto della stampa da parte di Repubblica, perché Fiat esce, Fiat darà le azioni che erano oggi di Itedi, una sua holding editoriale di controllo della stampa, le distribuirà tra i soci della Fiat, farà lo stesso anche per la sua quota del 16,7% di azioni che aveva del Corriere della Sera, e quindi gli rimarrà un 5% sia della fusione di Stampa e CIR, cioè di Espresso Repubblica Finegil, e un 5% anche di RCS, che però comunque, questa è l'annunciata intenzione, verranno liquidate sul mercato a tempo debito anche queste residue partecipazioni, cioè Fiat ed Exor escono definitivamente dall'attività editoriale. Sapete che nella scorsa estate, in realtà, e questo Marchione l'ha sempre sostenuto, ma la Exor di Elkann lo ha fatto poi, ha rafforzato la propria presenza in Pearson, quindi nel Financial Times e nell'Economist. Oramai Fiat Chrysler hanno un orizzonte mondiale, non hanno più bisogno del giardinetto italiano, dell'editoria italiana, bensì dell'Economist e del Financial Times, per avere un piede, insomma, in due grandi testate che pesano nel giornalismo economico finanziario mondiale, anche se hanno garanzie sulla propria indipendenza che i giornali italiani, rispetto ai proprietari, si scordano, perché lì ci sono regole ferree che sono a garanzia dell'autonomia dei giornalisti. Infatti quei due giornali producono notizie, questo è il punto. Allora, Salvatore Merlo, hai sentito la visione radicalmente critica di Giorgio Meletti, sia sul modello organizzativo sia sul pluralismo. Tu come la vedi invece? No, l'ho ascoltato con molto interesse il punto di vista di Meletti, pessimista o realistico che sia. Certo, il dubbio è l'identità di questo nuovo gruppo editoriale che viene fuori, come sarà? Sarà battagliero come è stata Repubblica negli ultimi 30 anni, o sarà il grande giornale unico dell'establishment valutato, che poi sarebbe la stampa, cioè prevale la stampa o prevale la Repubblica? Ma a comandare nell'azionariato e a scegliere i direttori comanderà Repubblica. Comanderà De Benedetti, no? Repubblica nasce, come sai bene, da un collettivo sostanzialmente di giornalisti. Vabbè, ma quello è finito da un tempo. Ma insomma, hanno contato moltissimo, e hanno contato addirittura più dell'editore molto spesso. Noi del piano editoriale di questa cosa non sappiamo niente, quindi c'è anche poco da dire. Conosciamo un piano industriale e assistiamo a una trasformazione gigantesca del nostro mondo, che interessa non solo noi giornalisti ma anche chi ascolta la radio e chi vive in Italia, perché tutta questa storia racconta e si intreccia con la storia d'Italia in maniera fortissima. Cioè, intanto c'è la fine definitiva del mondo Agnelli, che viene sancita con la cessione sostanzialmente della stampa, con la cessione del Corriere della Sera, un disimpegno di questa famiglia, non ci sono più gli Agnelli, si chiamano Elkann, no? Con il disimpegno di questa famiglia che ha determinato nel bene, nel male, i destini di questo paese. La Fiat si fa americana, non ha più bisogno di niente, non ha più bisogno del Corriere, non ha più bisogno dei giornali, non gliene importa nulla. Ora lui è riuscito, Elkann esce con savoir-faire, fa passare una cessione per così, per come se si fosse diluito, ma non si è diluito, è fuori. Contemporaneamente nasce un grande nuovo gruppo editoriale, una concentrazione enorme, perché c'è la Repubblica, c'è la Stampa, c'è il Secolo XIX, c'è tutto il gruppo Finegil, che sono i quotidiani, quotidiani locali, ed è un grande collettore, distributore di pubblicità, cioè una potenza, una corazzata, è vero, in un cosmo che si restringe, che è quello del mercato della carta, ma che vede nascere un po' come la Mondadori Rizzoli, un grande gruppo di concentrazione. E poi c'è anche l'aspetto di questa rivincita personale di Carlo De Benedetti, che è torinese, non ce lo dimentichiamo, che se ne andò e fu amministratore delegato della Fiat nel 76, se ne andò dopo solo 4 mesi sbattendo la porta, e adesso si compra il giornale che fu dell'avvocato Agnelli. E poi c'è anche Rizzoli e il Corriere della Sera, cioè Elkan, che ha tentato di farsi azionista di maggioranza e padrone del Corriere. Aspetta, della prima Sera, di arrivare al Corriere della Sera, però lasciami dire, cioè, mentre quando c'è stato i libri, quando è nata la concentrazione dei libri attraverso l'acquisizione di Mondadori, si sono scatenati tutti immediatamente, comprensibile, giusto, a richiamare i problemi antitrust. Se oggi sfogli i giornali italiani, da questo punto di vista non c'è una sola parola nei grandi giornali italiani. Nei giornali non c'è niente. C'è niente, cioè il problema è, come evidente, c'è un doppio pesismo nel giudicare, perché se mettiamo insieme la raccolta pubblicitaria di tutte le testate che hai citato e in digitale del gruppo che nasce, stiamo parlando del gruppo più importante dal punto di vista della raccolta. Certamente il gruppo più importante. Se poi ci sono i margini di un'azione dell'antitrust, questo non lo so. Lo vedremo. Però la differenza è che i giornali insorsero tutti per Mondazzoli. C'è evidentemente un riflesso condizionato che parte automaticamente in Italia. Lì si trattava della famiglia Berlusconi, che fa rima con conflitto di interessi, quindi la questione si è evidente. Allora, riprendi un secondo ragionamento sul Corriere. No, dicevo del Corriere della Sera, anche questo è notevolissimo, cioè non più di 2 o 3 anni fa John Elkann diventa il primo azionista del Corriere della Sera. Diciamolo così, impone un amministratore delegato che ha fatto molto male, impone un amministratore delegato, sogna di fare la fusione RCS e Stampa, e gli dicono tutti, dal professor Bazzoli in poi non se ne parla neanche, e poi si ritira. Sì. Il risultato degli altri azionisti non è migliore, anzi, visto in programma in chiaro pluriannale, merita 2 come voto, come distruzione di risorse. Questa è la mia opinione netta, bilancio e debiti alla mano, però. Sì, bilancio alla mano, il Corriere è indebitatissimo, fa acqua da tutte le parti, forse più per colpa dell'azienda in sé, RCS, che del Corriere, che forse è l'unica cosa che un po' funziona dentro. La novità però è importante, tant'è vero che ieri, questo mi ha sorpreso a un certo punto, poi ci ho ragionato, ho chiesto, ho fatto domande, me lo sono fatto spiegare, ieri il titolo del CES ha guadagnato punti, anche se oggi sta chiudendo male. Però la prima reazione è stata: qualcosa si deve smuovere e non può essere se non in direzione di una maggiore efficienza, il che significa però azionisti veri che ci devono mettere soldi veri per un altro aumento di capitale, cambiare la natura della proprietà significa implicazioni anche sulla qualità del giornale, e poi da solo o con qualcun altro. Io quello che posso dire, sono tenuto dal punto di vista del mio editore a informare tutti coloro che ascoltano che c'è stata una smentita ufficiale sia dell'attuale Confindustria attraverso il presidente editoriale sulle 24 ore Benedini, sia di Gianfelice Rocca, presidente della Lombarda, di qualunque interesse a operazione editoriale del tipo Sole 24 ore RCS. Lo dico perché sono tenuto a farlo. Però la questione del Corriere è direttamente collegata, e anche su quella sono tutti silenziositi, però, o mi sbaglio? Ma tutti io credo che siano stati contenti gli azionisti del Corriere della Sera a sapere che Elkan andava via, perché lì si erano trovati improvvisamente tutti d'accordo contro di lui, cioè la presenza emotiva e ingombrante di Diego Della Valle, l'Unipol, Tronchetti, Cairo, alla fine anche Bazzoli, che era stato deluso da Elkan, che si era sempre. E per il resto lui. Vedremo, dici, non è ancora chiaro. Meletti che pensa su questa questione del Corriere? Vabbè, è lo specchio dell'altra vicenda. Anche qui, quello di cui voi state parlando, conferma l'assunto. Cioè, perché si diventa azionisti del Corriere della Sera? Esatto, sì. Ma non perché uno investe in una impresa sperando di guadagnare. Io l'esempio che faccio sempre è stato Rotelli, che è scomparso, un strepitoso imprenditore della sanità privata mai sfiorato da scandali, uno dei pochi, che ha buttato letteralmente alla finestra quasi 200 milioni, non si capiva perché, e noi gli andavamo a chiedere: ma tu che sei così attento, ma perché butti via tutti questi soldi per entrare nel Corriere? E la risposta era quella che stavi dando tu adesso. La questione, ma poi io non so, Rotelli, vabbè, ha avuto anche lui i suoi problemi, ma la questione allora molto concretamente è questa: c'è stato un tempo che io ricordo bene in cui il Corriere della Sera era sostanzialmente in mano alla Fiat, esatto, e a Mediobanca. No, c'è dubbio. E quindi chi lavorava al Corriere della Sera sapeva, esatto, che il Corriere della Sera poi era c'è stato della, ma vedi, poi io adesso certo qui dobbiamo per forza chiudere, ma io mi permetto, non attribuendo a te, a dire che quando quell'epoca è finita da molti anni, nel frattempo gli imprenditori italiani non hanno saputo trovare la forza di una soluzione per recessa all'altezza. Ecco i risultati. Guardate, cari privati, si parla di voi, perché mica è sempre solo lo Stato a colpa, e lo penso io che sono un mercatista fottuto. Tra l'altro oggi è morto Sergio Ricossa, io abbraccio lui, la sua